Vallenón. La paghi tutti i giorni al fabbricante di liquame, che va a cena con San e ti filano le bombe nelle tasche. E fanno guerre che bruciano ragazzi come te, che cadono col sogno di proteggere un sogno. E in chiesa la gente che piange, fa largo e si stringe, nel posto in prima fila c'è sempre un governante che tratta col mercante e cena con il San. E tirano le bombe, e tirano le sonde, e il ciclo non si rompe, la guerra non è santa, ma noi stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Il libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano. Nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio. Al polso gemelli di rosso rubino, c'è un abito bianco di sete di vino. La polvere è un manto di gloria e di bando, sul petto una croce, qua sopra il suo santo. Non mi mortalate, diceva il suo canto. Non mi sbaglierate, gridava il suo pianto. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, e Dio ci perdoni se stiamo pregando. Un libro in una mano, la bomba nell'altra. Un libro in una mano, la bomba nell'altra. Il libro in una mano, la bomba nell'altra. Un libro in una mano, abbiamo il fuoco, abbiamo ragione, saremo più grandi, saremo più uniti, saremo più forti con chi ci ha colpiti. Alza il culo, col libro in una mano, la bomba nell'altra. Il libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, col libro in una mano, col libro in una mano.